Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius, settimana di pettegolezzi sul bosone di Higgs, la particella a cui si sta dando la caccia da un anno poco più. Ne parleremo in questa puntata, ma noi inizieremo dal vento e adesso i titoli. La scienza del vento, quello che spinge le grandi barche da regata. Due grandi progettisti ci raccontano i segreti di questa disciplina. ITIS Galileo, lo spettacolo di Marco Paolini, dedicato al grande scienziato. Scopriremo che Galileo fu il primo precario della storia e guadagnava facendo oroscopi. Facciamo il punto sul bosone di Higgs, dopo una settimana di gossip e notizie imprecise. Com'è possibile che in altri pianeti del Sistema Solare siano presenti idrocarburi? Non derivano dalla presenza di vita? Questa è la domanda impossibile di Anita. Il ragno saltatore mette a fuoco le sue prede, come le moderne macchine fotografiche. È la scoperta di una ricerca giapponese, pubblicata su Science. Scienza del vento, allora, vi ho detto. La scienza del vento, ma il vento è quello che spinge le barche. Il sailing, come si dice in inglese. E infatti a Milano ci sarà un appuntamento dedicato a varie cose che riguardano la veleria e l'andar per mare, però ci sarà un appuntamento convegnistico, un meeting dedicato proprio a questo tema, cioè la scienza del vento. Per avere tutte le informazioni c'è un sito, andate a www.sailing-passion.com. E qui con me è ospite questa sera, uno che di vento se ne intende veramente tanto, Guido Cavallazzi, buonasera. Buonasera. Progettista di vele con esperienza di Coppa America, ne ha fatte ben sette, passando da Azzurra, Moro di Venezia, Luna Rossa, insomma siamo ai massimi livelli. Ricordo allora a Cavallazzi che c'è questo appuntamento il 16 mattina alle 10.30, avete tutte le informazioni, ripeto, su www.sailingpassion.com. Cavallazzi, le chiedo una sola cosa, abbastanza, secondo me, abbastanza interessante, e cioè questa. Voi progettate ormai degli oggetti, queste barche, che hanno un livello di tecnologia sofisticatissimo dentro, per riuscire ad ottenere i risultati migliori. Sì. Quindi fornite a un team un apparato tecnologico estremamente sofisticato. Vi capiterà di avere problemi con questo team che dice però io voglio guidare la barca in un certo modo, tu me la dai in un altro, e lei che dice sì va bene ma io ti do un mezzo che se è fatto così fai mezzo nodo in più, e quindi c'è insomma un contrasto tra chi vuol guidare, come avviene spesso anche in Formula 1? Sintetizzando molto si può dire che una barca con un determinato piano velico ha bisogno di una spinta X dalle vele nelle condizioni medie in cui si può trovare. Questa spinta si può ottenere in diversi modi, un po' con la superficie ma soprattutto con la forma e lo spessore della vela, che è proprio un'ala verticale che sottrae forza dal vento. Certo. Quello che però è importante è che la vela sia versatile, cioè che permetta all'equipaggio con piccole e veloci aggiustamenti di assetto di ottenere un notevole differenza in termini di spinta, in modo da poter, diciamo, cambiare marcia, cioè permettere che la barca abbia una propulsione diversa se deve incontrare delle onde, se deve cambiare direzione perché l'altra barca è vicina o che so io. È molto importante questo, cioè lavorando con gli equipaggi che poi utilizzano le vele, sono persone molto preparate nell'ambiente in cui per esempio si svolge la Coppa America, e con loro si mette a punto la vela sul loro modo di portare la barca. Questo è un dettaglio fondamentale. Però ci può essere, insomma, per quanto magari garbato, ma un braccio di ferro tra quello che vuole il tecnico progettista e quello che vuole il team. Bisogna trovare un compromesso a un certo punto? Sì, certo, perché conta molto la partecipazione e la condivisione da parte dell'equipaggio del concetto che poi si esprime in una vela. se lui la vela l'ha fatta insieme al progettista, dopo la userà più facilmente e la barca andrà meglio, di sicuro. Ovviamente non bisogna andare in una direzione troppo sbagliata in termini teorici, se no si compromette la performance. Cavallazzi, sì. La ringrazio, la sentiranno chi vorrà venire all'appuntamento a raccontare molte altre cose. Passo a un suo collega, Raffaele Marazzi, altro progettista. Grazie, molto di barche. Volentieri, a presto. E l'altro mio ospite, sempre per parlare di vele, è Raffaele Marazzi. Buonasera Marazzi. Buonasera. Anche lei progettista di barche, Coppa America, Olimpiadi, ne ha vinte anche un paio di Olimpiadi. Nella Coppa America sono arrivati i catamarani, sono degli oggetti completamente diversi dalle barche che abbiamo visto. Marazzi, mi dica in modo sintetico qual è la grande differenza tra queste due barche? Il monoscafo, per poter reggere la spinta del vento sulla vela, deve fare una cura ingrassante, deve diventare molto pesante. Il poliscafo invece, al contrario, ha una stabilità di forma e può fare una cura dimagrante. Cioè è più stabile, lei dice, quindi può essere più leggero. È molto più stabile, quindi può portare molta più vela e è molto più leggero, quindi ha delle resistenze idrodinamiche molto più basse, per cui mentre per un monoscafo, se ci limitiamo alla Coppa America, prima c'erano i 12 metri, che la barca faceva circa 0.8 la velocità del vento, con l'America's Cup, Moro di Venezia e simili, si arrivava a 1.2, coi poliscafi moderni si può arrivare a delle barche che fanno più di due volte la velocità del vento. Ah, quindi riescono a recuperare una quantità di energia impressionante dal vento. Difatti, molto spesso si guarda all'efficienza della vela in termini di trazione che può dare la vela, in realtà si deve guardare la potenza che la vela estrae dal vento, che è la trazione per la velocità. E più la barca è veloce, e più riesce a estrarre dal vento potenza. Giusto per dare un'idea, ordine di grandezza, un poliscafo moderno riesce a estrarre dal vento circa 4 volte la potenza che una vela di un 12 metri riesce a estrarre dal vento. Siamo in un altro mondo praticamente dal punto di totalmente vista... Totalmente un altro mondo. Marazzi, io la ringrazio e ricordo allora che ci sarà questo appuntamento dedicato alla scienza del vento il 16 della prossima settimana alle 10.30, però per avere informazioni andate a www.sailing-passion.com. Grazie Marazzi, a presto. Buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo arrivati al nostro quiz che sarà sull'acqua gelata. Non potevamo fare un quiz diverso di questi tempi. Allora la domanda è questa: l'acqua non congela sempre a 0 gradi, ma c'è una temperatura oltre la quale congela sempre. Qual è questa temperatura? Prima possibilità, meno 7 gradi, ci scriverete 7, oppure meno 22, ci scriverete 22, e infine meno 48 e scriverete 48. Sempre scriverete con un SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana, ne abbiamo parlato la scorsa settimana nella puntata, il libro è Paranoia, la follia che fa la storia, scritto da Luigi Zoia, edito da Bollati Boringhieri, e questo libro è offerto da Librerie Rizzoli. ITIS Galileo è uno spettacolo scritto da Marco Paolini, recitato da Marco Paolini e da Francesco Nicolini, che è in scena nei teatri italiani questa stagione, in cui si racconta in questo spettacolo la vicenda scientifica e umana di Galileo Galilei, uomo scienziato, un po' tecnico, grande, grandissimo divulgatore. Ripercorriamo alcuni momenti dello spettacolo insieme a Paolini in questo servizio curato da Ilaria Canobbio. Guato il cielo con un istrumento da me creato. Trum, trum, trum, frum, frum, frum, zum, pum. Un cannone. Un cannone occhiale. Nel 1609 Galileo Galilei realizza su un modello olandese il cannone occhiale e lo vende al Doge di Venezia come strumento di difesa. Esso permette infatti di avvistare le navi nemiche molto prima che arrivino al porto. Ma Galileo, contemporaneamente, ha un'intuizione. Alza il cannocchiale al cielo e per tutto l'inverno osserva le stelle. Osserva e misura. E poi, ancora più importante, si mette a scrivere. Galileo si ferma, il 15 gennaio smette di guardare, si mette a scrivere e dice no. Scrivo. Il risultato? Un libretto. 30 pagine. 30 paginette, però il 15 di marzo è già in edicola. Si chiama Annuncio Celeste, anzi lo faccio in latino, così lo vendo all'estero subito. Nuncius Sidereus! È una rivoluzione. Galileo non solo mette in discussione la dottrina aristotelica e il sistema tolemaico in cui la Terra è immobile e il Sole le ruota attorno, ma anche e soprattutto comunica al mondo le sue scoperte e permette a tutti di verificarle con i propri occhi. Grandi cose. E dico grandi, io metto sotto la vostra attenzione. Grandi non solo per la novità nei secoli, ma per la perfezione dello strumento da me impiegato. Gran cosa, eh? Vedere le stelle in numero 10 volte maggiore di quanto finora visibile col solo occhio umano. Gran cosa vedere il corpo della Luna 30 volte più grande, la sua superficie non lissia, ma rugosa. Tutte queste cose furono scoperte da me grazie all'uso di un cannocchiale che ho inventato io dopo aver avuto l'illuminazione dalla grazia divina. È meglio metterlo. Ma come nasce l'idea di uno spettacolo ispirato a Galileo Galilei? Lo abbiamo chiesto a Marco Paolini, autore e attore dello spettacolo Itis Galileo, di cui avete sentito alcuni spezzoni. La genesi di uno spettacolo non è mai lineare, non si può dire che nasca da un progetto, perché a volte nascono da delle distrazioni, stai facendo una cosa e ti viene fatta una proposta, una suggestione. Quindi in occasione dell'anno galileiano il sindaco di Padova mi ha proposto di occuparmi del dialogo sopra i massimi sistemi, esattamente come tra l'altro a un certo punto racconto nello spettacolo. Ho approfittato per cominciare a fare delle letture e delle discussioni insieme a Francesco Niccolini, che è coautore di questo lavoro. Evidentemente rappresenta proprio una sfida anche al linguaggio del teatro, che invece sembra nato per nutrirsi più di poesia che non, o di filosofia che non di fisica. Ma proprio per questo è più interessante la fisica. Da un punto di vista scientifico, in che cosa sta il valore di Galileo? Io credo che il valore di Galileo non stia in un'astratta capacità di vedere, cioè sta, mi sembra, in una capacità di astrarre da ciò che si vede, perché tutti sono capaci di vedere il Sole che letteralmente si muove nel cielo, mentre la capacità di astrazione di Galileo è quella di, è la stessa dei grandi intuitivi di Einstein, che osservando delle cose riescono a porsi delle domande in maniera problematica, che sono formulate in modo semplice. Galileo Galilei da vecchio è libero perché ha una testa in grado di guardare alle cose senza bisogno di accontentare nessuno. Quello che fa Galileo Galilei tra i 70 e i 79 anni è straordinario, perché fonda la disciplina che noi oggi chiamiamo scienza, perché fonda sul dubbio che nasce dalla verifica di esperimenti, che mette in discussione le certezze della fisica di prima. Il risultato è un libro straordinario, discorso sopra due nuove scienze. Galileo Galilei è stato anche un grande comunicatore e divulgatore. Con la pubblicazione del Sidereus Nuncius, di fatto, Galileo non solo fa una scoperta scientifica, ma la comunica a tutti. Il Nuncius va a ruba. È un bestseller. 670 copie vendute. Considerato il numero dei lettori potenziali, lo share è altissimo. Per i clienti più importanti, Galileo prepara una confezione con un gadget, un cannocchiale celofanato che offre in omaggio insieme al libro. Fino alla biura Galileo è un grande divulgatore, poi sembrerebbe che non può più farlo, in realtà cura la traduzione dei propri libri nelle altre lingue, sovrintende al lavoro della traduzione anche quello che non fa lui, quello che fanno i suoi discepoli, quello che poi sceglie le persone che lo tradurranno in altre lingue, perché fanno parte di una cerchia di relazioni che, anche se non c'era internet, era piuttosto sviluppata. C'è Pierre de Gassendi, che è importante per divulgare Galileo in Francia, e Pierre de Gassendi è anche il precettore di Molière, e quindi si può immaginare un Molière alimentato da idee galileiane, almeno io soggettivamente mi sono preso questa libertà di immaginarlo. Galileo è uno studente bastardo, mezzo studente, mezzo meccanico. E per la consolazione dei fuori corso presenti oggi in teatro, dirò che il Galilei non si laurea neanche in matematica, no. Ma è bravetto, e per merito viene assunto. Galileo Galilei diventa il più giovane precario mai assunto in un'università italiana. E come campa? Oroscopi! L'uomo che inventa la scienza fa oroscopi per tutta la vita. Oggi più di ieri la scienza entra nella società. Forse il fatto che la scienza sia percepita come una materia ostica è dovuto agli scienziati che non la sanno raccontare al pubblico? La questione è che, come io mi alimento del lavoro di altri per dare vita al mio lavoro di teatro, così non esiste che lo scienziato si occupi soltanto del suo lavoro, delegando agli specialisti della comunicazione di comunicare il suo lavoro. Mi dispiace, un po' più di artigianato, un po' meno di divisione del lavoro. Non mi tolgo dalla testa che, comunque sia, chi fa una cosa deve provare a esercitarsi a raccontarla. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che nessuna democrazia può permettersi di delegare la libertà di scelta al singolo scienziato, nessuna democrazia può pensare che curare la libertà di pensiero sia una fede o una religione, una per tutti. Itis Galileo, quindi, questo spettacolo di Paolini. Vi ricordiamo che questo spettacolo è a Genova dal 15 al 19 febbraio, poi va a Verona, ma insomma ci sono tutte le date sul sito dello spettacolo stesso, basta che in un motore di ricerca digitate Itis Galileo e lo trovate. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Barbara Gallavotti, ciao. Ciao Federico, buonasera. Siamo qui per vedere le ultime notizie di una settimana che ha visto ancora una volta il bosone di Higgs al centro di notizie più o meno esatte. È abbastanza singolare questo fatto ormai. Credo che non ci siano precedenti così curiosi di ricerche che seguiamo come se fossero della cronaca, no? Effettivamente molto interessante. Con noi c'è anche Sergio Bertolucci. Buonasera Bertolucci. Buonasera a voi. Direttore della ricerca al CERN di Ginevra, che però adesso si trova a Chamonix, si scia. Cosa state cercando? Il bosone sotto la neve? Beh, è uno dei posti dove ormai può soltanto nascondersi. Perché l'avete accerchiato. No, Chamonix è una tradizione del gruppo degli acceleratori del CERN. Una volta all'anno veniamo qua una settimana, parliamo di tutto quello che è successo dell'anno prima, senza filtro, cercando non soltanto i successi ma i problemi, e pensiamo a cosa si farà nell'anno davanti a noi. Ah, bene, una bella riunione. E questo serve per poi mettere a punto la strategia che ci porta avanti durante l'anno e negli anni futuri. Ah, quindi un momento importante, però non abbiamo molto tempo. Un ritiro, direi, quasi un ritiro monastico, in un bel posto, però insomma. Allora, vi dicevo, non abbiamo molto tempo e vorrei, Barbara, che tu sintetizzassi un po' i titoli di questa settimana e poi chiediamo a Bertolucci come stanno le cose. Beh, come dicevi tu, è stata una settimana un po' frenetica dal punto di vista della comunicazione sul bosone, perché quello che è successo è che sono usciti a metà della settimana gli articoli scientifici che contengono l'analisi dei dati presentati a dicembre, quei dati che hanno finalmente fatto pensare che si avessero dei veri indizi sul fatto di aver trovato il bosone di Higgs. Allora, prima che gli articoli uscissero si era diffusa per un certo tempo la voce che basta, il bosone era stato trovato, c'eravamo, fine della caccia. E invece, Bertolucci? Come stanno le cose? Beh, no, no, essenzialmente queste voci erano ingiustificate. Quello che è successo è che gli esperimenti l'anno scorso hanno ottenuto due risultati estremamente importanti, spinti dal fatto che la macchina ha funzionato 5 volte meglio di quello che pensavamo nella nostra, nel nostro entusiasmo. È la prima volta che un acceleratore funziona 5 volte meglio di quello che era previsto come suo obiettivo. Gli esperimenti hanno potuto avere accesso a una quantità di dati assolutamente impensabile prima e hanno prodotto un risultato estremamente importante. Hanno ridotto il margine in cui il bosone di Higgs può esistere da un campo largo, diciamo 600 volte la massa di un protone, a un orticello soltanto largo 10 volte la massa di un protone. Diciamo, quindi 10, insomma, 10 volte la massa di un protone. O è lì o non e è lì. E questo orticello hanno incominciato a vedere dei segni molto interessanti di qualche pianticella che stava spuntando. Chiaramente, per chiamare questa una scoperta, è necessario che la pianticella possa essere distinta dal terreno per una quantità tale che uno possa dire che è una pianta e non una fluttuazione della conformazione del terreno con un errore inferiore a una parte su 30 milioni. E non ci siamo ancora a quello. Bertrucci, è un po' come quelle foto da satellite, no? Che poi arrivano a individuare la bicicletta addirittura. Bisogna mano a mano restringere, è una cosa così. Sì, allora, fa anche pensare con una certa ansia che insomma nelle foto fatte da distanza si sono anche visti dei volti e delle piramidi su Marte che poi in realtà questo erano è vero, esatto. Appunto. Però voi state prendendo delle decisioni importanti adesso a Chamonix proprio per essere sicuri che nel giro dei prossimi mesi comunque questo orticello verrà esaminato ben bene e l'eventuale pianta individuata senza ombra di dubbio. Stiamo ottimizzando adesso l'operazione nel 2012 in maniera tale che alla fine del 2012 non ci siano dubbi sull'esplorazione dell'orticello rimasto. In una maniera o nell'altra, entro la fine del 2012 vogliamo o aver scoperto senza nessuna ambiguità l'X o aver dimostrato che l'X previsto dallo Standard Model non esiste. In entrambi i casi si tratterebbe di una grandissima scoperta perché in maniera diversa aprirebbe una strada per il futuro, due strade diverse e entrambe estremamente importanti. Di grandissima importanza. Per fare questo vogliamo ottimizzare il funzionamento della macchina e una delle maniere è alzare leggermente l'energia della macchina, perché questa cosa ci permetterebbe di migliorare di un 30-40% l'efficacia di scoprire l'X. Questo ovviamente va bilanciato col fatto che aumentando l'energia aumentiamo la possibilità del rischio di malfunzionamenti della macchina e una delle cose principali di questo Chamonix quest'anno è ristudiare, fare questa analisi del rischio in modo tale da convincerci che se c'è un rischio aggiuntivo è trascurabile, per cui possiamo prenderlo, oppure che non conviene prendere questo rischio e continuiamo ad andare avanti come siamo andati avanti l'anno scorso. Va bene, comunque il 2012 è l'anno buono. Adesso non bisogna mai dire queste cose, lo diciamo. La mia credibilità di scienziato per dire questo. Quindi lo sentiremo a questi microfoni il successo, che effettivamente che ci sia o non ci sia è comunque una grande cosa, questo è il fascino di questa caccia. Grazie Bertolucci. Grazie a voi. E buona continuazione della riunione. Ciao Barbara. Ciao Federico e buonasera a tutti. Siamo arrivati all'ora domanda, come dicevo prima, però doveva esserci anche domanda Alberto. Domanda degli qua. Ascoltatori. Ah, Alberto, no, però non lo vedo. Non lo vedo. Cominciamo con la domanda. Direi di sì, cominciamo con la nostra domanda di Anita che questa settimana ci ha scritto su Facebook, anzi ricordatevi di mandarci le vostre domande impossibili di scienza su Facebook, ci trovate sotto il profilo Moebius Scienza oppure la mail moebius@radio24.it. Sentiamo Anita. Vorrei sapere come mai su altri pianeti oltre il nostro esistono degli idrocarburi, dato che sono sostanze derivanti dalla decomposizione di sostanze organiche in linea di massima. Grazie. Federico, Chiara, ma Alberto, ci siete? Pronto, pronto? Sì, ci siamo, sì, dove sei? Dove sei finito? Eccovi. Oh, non c'era la domanda sui pianeti, sì, idrocarburi? L'ha appena fatta Anita, sì. Appunto, dove sei? Io, come un bravo giornalista, mi sono alzato dalla scrivania e sono andato a controllare di persona. Cioè, su un pianeta? No, beh, su un pianeta sarebbe stato difficile, anche perché bisognava girarli tutti per capire. Sono andato in un posto da dove però i pianeti, quelli sì, si vedono tutti, almeno quelli del Sistema Solare, e sono con un esperto di Sistema Solare e di astronomia in generale, che è Walter Ferreri. Buonasera. Buonasera, Ferreri. Buonasera a voi. Allora siamo coperti. Dove siete? Dove siete? Siamo all'Osservatorio Astronomico di Torino e Walter Ferreri è appunto uno degli astronomi che lavorano qui, è un esperto del Sistema Solare, chi meglio di lui per rispondere a questa domanda? Ci dica tutto, Ferreri. La spiegazione è abbastanza semplice, relativamente semplice, nel senso che gli idrocarburi non si formano soltanto per decomposizione delle sostanze organiche, quelle osservate, ma si possono formare anche al di fuori della Terra, dall'unione di diversi atomi. Noi dobbiamo tenere presente che l'idrogeno è l'elemento di gran lunga più abbondante nell'universo e quindi anche nel sistema solare, e inoltre abbiamo anche molto carbonio e altri elementi, e questi elementi possono, date certe circostanze, come ad esempio avendo una certa pressione, una certa densità, possono unirsi spontaneamente e dar luogo così a tutta una serie di idrocarburi. Questo avviene appunto nei pianeti dove c'è una gravità sufficiente, quindi possiamo averlo nei pianeti piuttosto grandi, infatti noi li vediamo nei pianeti giganti, da Giove a Nettuno, cioè praticamente i quattro più esterni, mentre non li abbiamo invece nei corpi molto piccoli, come ad esempio gli asteroidi, perché la loro gravità, la loro massa non è consente. Assolutamente insufficiente. Certo. E queste sono cose abbastanza normali, abbastanza scontate, non sono delle stranezze. Noi pensiamo, tra l'altro, in base ai nostri studi che abbiamo effettuato finora, che queste cose vi siano anche nei pianeti, in altri sistemi, oltre quel sistema solare. Cioè. Forse due paroline dicendo cosa sono gli idrocarburi, però dobbiamo spenderle forse. Sì, allora, cosa sono gli idrocarburi? Sono dei composti essenzialmente di idrogeno e carbonio, dei quali probabilmente il più semplice è il metano, è un composto che noi troviamo soprattutto nelle atmosfere esterne dei pianeti. Comunque poi ce ne sono di molto più complessi di idrocarburi, quelli che noi vediamo nei pianeti sono quelli più semplici, quelli che hanno più probabilità di praticamente formarsi, e sono delle sostanze che sono alla base praticamente della vita, sono praticamente delle sostanze, dei mattoni. I mattoni fondamentali. Esattamente, fondamentali per la vita, quelle che poi formano gli amminoacidi, dai quali poi si formano le proteine, e che poi evidentemente sono le sostanze alla base della vita. C'è anche da dire però purtroppo che non abbiamo mai trovato finora delle sostanze particolarmente complesse, e questo è anche uno dei motivi probabilmente per il quale noi non abbiamo mai trovato finora nessuna forma di vita al di fuori della Terra. Quindi diciamo che Anita non era proprio così lontana dal trovarsi la soluzione, insomma, alla sua domanda. Infatti, noi pensavamo nel passato che avremmo trovato delle forme di vita su Marte, perché c'erano molti aspetti che osservato al telescopio facevano ritenere che potessero essere perlomeno delle forme elementari di vita, vita batterica, oppure muschi, licheni, e invece finora, nessuna sonda ha mai trovato nulla, di certo. Staremo a vedere, grazie Ferreri. Grazie a voi. Alberto, tu cosa fai? Rimani lì o torni? Io mi sposto solo di qualche passo, perché qua vicino c'è il Planetario di Torino, che è un bellissimo science center che è stato inaugurato 4 anni fa, è costato anche un po' di soldi, insomma, e adesso rischia, se non proprio la chiusura, almeno un ridimensionamento, insomma. Questa struttura, che è un planetario digitale, ma è anche un museo interattivo, insomma, si possono fare laboratori, visite guidate e osservazioni della volta celeste, e adesso è a rischio perché sono stati tagliati dei fondi, quindi... C'è una trattativa in corso? Sono proprio le ore decisive? Sono forse non le ore, ma insomma le settimane decisive. E si è spesa persino Margherita Hack con un appello. E spendiamoci anche noi, cosa facciamo? Un appello a chi? Agli amministratori torinesi? Date una mano al planetario. Ma facciamolo soprattutto ai nostri ascoltatori, che si documentino perlomeno, c'è anche, si può anche fare una sottoscrizione, ma comunque come minimo che vadano a guardare sul sito del planetario www.planetariodittorino.it, dove si spiega nel dettaglio la situazione. Tutta la cosa. Va bene. In bocca al lupo al planetario. Speriamo che i torinesi possano continuare a vedere le stelle allora. Grazie Alberto. Ciao Alberto. Grazie a voi. Ecco, a proposito di domande bizzarre, ora questa abbiamo risposto, ma ce ne arrivano in continuazione. Possiamo anticipare, Federico, abbiamo 2 secondi per anticipare quelle che ci sono già arrivate in redazione, di cui ci occuperemo la prossima settimana e quelle successive. Quella delle uova? Sì, c'è questa che è meravigliosa. Impossibile. Allora, Christian ci scrive: salve, questa mattina parlando con una collega sono venuta a conoscenza di un esperimento da fare con le uova per testarne la freschezza. Mi spiego bene, dice Christian. Si spiega bene. Sì. Tenendo con una mano un uovo e con l'altra mano un altro uovo, metto in equilibrio tra i due e senza tenerlo un terzo uovo. Sì. Questo girerà più o meno velocemente in base alla freschezza. Noi abbiamo già rotto una quarantina di uova. Adesso però... questo ci facciamo spiegare bene, Christian, com'è la posizione delle uova. Ma lui quello che chiede è questo. Perché gira? Perché sembrerebbe che quello che non viene toccato gira... per una non riesco a capire, forza magica, ma non solo, vuole sapere il perché gira in modo diverso in base alla freschezza, cioè più o meno fresco, più o meno veloce l'uovo girerebbe. Può darsi che sia vero, noi stiamo facendo gli esperimenti. Christian, ci stiamo attrezzando, troveremo l'esperto, glielo assicuriamo, ma non è finita. No, ce n'è una molto bella effettivamente, quella del perché abbiamo 2 occhi, perché abbiamo 2 orecchie, perché però abbiamo 2 narici e un naso solo. Perché la bocca è una sola? Molto bella. Perché abbiamo 2 gambe, però c'è un fegato solo. Perché non abbiamo un fegato a destra e a sinistra? E anche questo, insomma, troveremo qualche evoluzionista che ce lo spiegherà. Ma non è finita. Ci sono tante domande che ci arrivano su queste famose scatole nere nelle auto, queste famose check box per l'assicurazione, che servirebbero anche per la sicurezza stradale dell'automobilista. Non vi preoccupate, ingegneri, aprite le orecchie che stiamo per arrivare anche lì da voi. Lì ci chiedono se fanno male alla salute. Sì, ma non solo, anche come funziona, che tipo di meccanismo hanno, rispondiamo, eccetera eccetera. Rispondiamo. Arriveremo anche qua. Per mandarci le domande, allora moebius@radio24.it. E per andare al traffico? E per andare al traffico ci andiamo subito. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, breve intermezzo ora, soltanto per dirvi che la prossima settimana, cioè nella prossima puntata di Moebius, parleremo di nanotecnologie ancora applicate al cibo, all'alimentazione. Come sapete, forse molti di voi ci hanno già sentito, stiamo partecipando a un progetto europeo dedicato alle nanotecnologie, un progetto che cerca di stabilire un grosso contatto con la gente, con il pubblico, tra il pubblico e le istituzioni, per andare a capire che cosa pensiamo di queste nanotecnologie e la funzione appunto di trasmissioni come questa di Moebius, che è un partner europeo di questo progetto. In Inghilterra c'è il quotidiano Il Guardian, in Spagna c'è il quotidiano Il Mondo, per l'Italia c'è questa trasmissione Moebius. L'obiettivo è appunto quello di fare comunicazione, ma anche raccogliere le vostre opinioni come ascoltatori. Allora, la prossima settimana parleremo di nanotecnologie e cibo e alimenti, però vi ricordo che se andate sul nostro sito www.moebiusonline.eu, già dalla home page troverete una sezione dedicata a questo progetto nanotecnologie. Andate lì, ascoltate un estratto della trasmissione che abbiamo fatto un paio di settimane fa, che è dedicata a nanotecnologie e il problema delle etichette, e lì avete la possibilità di votare, di dire la vostra, di dare la vostra opinione. È importante, mi raccomando, fatelo. È stato scoperto un ragno saltatore, no? Cioè si è capito... Diciamo che il ragno esisteva già, il ragno saltatore, che si chiama Asarius adansoni, ecco il nome preciso scientifico. Sono dei ragni saltatori che saltano per predare, quindi per raggiungere la preda. Ma la cosa interessante, che viene da uno studio di Osaka, quindi da uno studio giapponese, ed è stato pubblicato, pensa, su Science, quindi uno studio importante, la scoperta è il meccanismo con cui questo ragno mette a fuoco la preda e quindi salta sulla preda per papparsela. Ecco, per parlarne noi abbiamo dovuto chiamare il nostro aracnologo di fiducia, il naturalista di Genova, Emanuele Biggi. Buonasera Emanuele. Ciao a tutti. Buonasera. Ecco, ben ritrovato. Scusa Chiara, qui non vorrei... anche voi. voi. Grazie Emanuele. Non vorrei che fosse tipo quegli archeologi che scoprissero nei fori romani sotterrata una cucina a gas e dicessero: curioso, invece che quattro fuochi ne ha due, e non si interrogassero sul fatto che c'è una cucina a gas. Cioè, io, ma i ragni non vanno a caccia con le ragnatele? Cos'è che fa questo Emanuele, che salta? Vai. Ma guarda, i salticidi sono praticamente l'eccezione che conferma la regola nel mondo dei ragni. Ah. Infatti sono gli unici, diciamo, che cacciano totalmente a vista. E proprio per questo motivo hanno soprattutto questi due degli otto occhi di cui sono dotati, che sono particolarmente votati a questa funzione. E addirittura vedono ancora meglio, vedono più lunghezze di frequenze luminose rispetto a noi. Vedono addirittura in quadricromia, quindi vedono parecchio bene anche i raggi UV. Ma non usa la ragnatela? Non usano ragnatele se non per starsi casa e per proteggere le uova. Cioè sono in grado di emettere ragnatele, ma non per cacciare. Se non usano le ragnatele anche per assicurarsi durante i salti, per evitare cadute, sai, bungee jumping, hai presente? Ecco, sì, infatti. Però, insomma, veniamo alla notizia, perché è molto interessante. Come tu hai ben detto, hanno otto occhi, ma in realtà i due occhi principali sono quelli che utilizzano questo meccanismo che hanno scoperto appunto questi giapponesi, per cui mettono a fuoco o sfocano lo sfondo, un po' come fanno le macchine fotografiche. Insomma, spiegaci Emanuele com'è questo meccanismo e come poi ci sono arrivati anche questi giapponesi. Guarda, è una cosa molto particolare, è il primo caso in natura di capacità di mettere a fuoco usando dei diversi piani sfocati, in pratica, o meglio, in natura normalmente ci sono altri tipi di messa a fuoco, le sovrapposizioni di due punti di vista, diciamo, che è quella che usiamo anche noi, vari aggiustamenti della focale e anche quello che fanno anche per esempio i gufi di spostare il collo di lato, che si chiama messa a fuoco in parallasse. Cioè si spostano proprio. Non fanno niente di tutto questo. Hanno scoperto i ricercatori che esistono due diversi sostanzialmente livelli di fotorecettori sensibili in particolare solo alla luce verde. Il fatto è che uno dei due recettori, quello più interno al corpo dell'animale, è quello su cui la luce verde viene messa a fuoco letteralmente, mentre quello più esterno, quello più vicino alla parete dell'occhio, alla superficie dell'occhio, riceve la luce verde però sfocata. Questi ragni in pratica hanno scoperto che riescono proprio a fare un confronto, una proporzione si potrebbe dire, fra la parte a fuoco e la parte sfocata, e la quantità di sfocatura gli permette di capire che distanza c'è dal soggetto che stanno per andare a cacciare. Fantastico. E poi la cosa interessante è che è un sistema molto complicato, perché è un sistema piuttosto specializzato, però in realtà questi ragni hanno un cervello, diciamo, poco sviluppato, è quasi un ganglio, cioè pochissimo sviluppato, quindi è molto interessante studiare il meccanismo, perché in realtà sembrerebbe un dispositivo semplice che però ha un compito veramente che svolge complesso. Un compito molto complesso. Sì, sì, non solo, questo dà, infatti nell'articolo anche tra l'altro è proprio citata questa possibilità, dà diciamo adito a pensare che si possa studiare a fondo questo sistema per sviluppare prima di tutto degli occhi diciamo robotici, nello sviluppo di una visione robotica proprio vera e propria, e poi il futuro apre scenari adesso un po' possiamo dire un po' fantascientifici ma non così irrealistici. Per un eventuale futuro semplice occhio bionico umano, quindi protesi oculari, diciamo. Ho capito. Protesi oculari funzionanti. Senti Emanuele, però siccome l'articolo su Science non è stato scritto da un ragno saltatore, no, come hanno fatto a capire questa roba qui? Cosa hanno fatto questi furbetti giapponesi? Sono stati veramente ingegnosi. Innanzitutto hanno levato temporaneamente la vista agli altri occhi, che comunque non sono occhi che intervengono nella caccia, quindi hanno praticamente levato distrazioni al ragno, si potrebbe dire. Li hanno bendati, diciamo li così. Li hanno bendati temporaneamente. Dopodiché hanno studiato le varie lunghezze focali, hanno visto che questi fotorecettori erano sensibili apparentemente solo alla radiazione verde, quindi hanno fatto degli esperimenti con una luce verde e una luce rossa separatamente, e hanno visto come, siccome la lunghezza focale della luce rossa è maggiore di quella della luce verde, il livello di sfocatura di un oggetto sotto la luce rossa risultava praticamente uguale a quello di un oggetto sotto la luce verde più vicino. Morale della favola, tanto per non andare troppo nello specifico dell'ottica, il ragno, quando veniva posto sotto la luce rossa, ceffava alla grande la preda, cioè faceva dei salti molto più brevi. Non la prendeva, non ci arrivava. Perché a lui pensava più vicino, in pratica. Okay, beh. E invece sotto la luce verde li prendeva subito, sotto arrivava... la luce verde in pratica li prendeva senza avere nessun problema e senza che dovessero entrare in gioco altre lunghezze focali, quindi lui proprio si basa su quella lunghezza focale, lunghezza d'onda, di luce d'onda verde, per riuscire a cacciare le prede. Ed essendo loro giapponesi, tutto questo l'hanno ripreso. E quindi se voi andate sul nostro sito www.moebiusonline.eu trovate il video, sì, dove il ragno sbaglia clamorosamente la preda sotto la luce rossa e invece salta perfettamente nella distanza giusta sotto la luce verde. Ecco, però io volevo capire anche un'altra cosa. I ragni riescono con le ragnatele, quando gli si infila dentro addirittura anche un'ape, no? o una mosca, riescono, visto che queste sono bloccate lì, immobilizzate, e riescono a mangiare, no? Questo qua che fece fa gli agguati, sì, e di che cosa si ciba? Perché intanto dovresti dirci quanto è grande, nel senso che deve avere allora una capacità, una forza di immobilizzare la sua preda in modo decisamente superiore, visto che non ha a disposizione una ragnatela. Quanto è grande questo ragnetto? Guarda, i salticidi, il gigante fra i salticidi, il gigante, la specie più grossa in assoluto, è lunga circa 2 centimetri. Ah. Quindi sono praticamente minuscoli, ragni molto piccoli. A me piace definirli con grande affetto, perché sono molto interessanti anche dal mio personale punto di vista, le tigri dell'erba. Sono molto piccoli, hanno però la particolarità di avere dei veleni portati all'uccisione delle prede, quindi artropodi, insetti, molto potente. Quindi in poco tempo il veleno agisce, è specializzato a uccidere piccoli artropodi, piccoli insetti come mosche e piccole api, anche piccole vespe, eccetera. Quindi evita qualsiasi tipo di pericolo da parte del salticide durante l'uccisione della preda. Quindi piccoli ma potenti. Piccoli ma potenti, esatto. E anche questa caratteristica del salto in realtà è un sintomo di potenza, perché insomma non quanto sarà fa? Mica facile. Quanto salta? Sì, non solo, il fatto che possano saltare significa, e sono anche piuttosto intelligenti, cioè riescono addirittura a ricordarsi fino a alcune specie fino a un'ora la posizione di una preda, fare dei movimenti di detouring, no? di spostamento laterale in modo da balzare sulla preda da dietro, come in agguato. Aspetta, esattamente. Non abbiamo mica che cosa vuol dire che fino a un'ora voi immaginate un cervello molto piccolo, cioè veramente come fosse poco più di un ganglio nervoso. Sì. Eppure riescono ad avere una memoria della posizione di un'eventuale preda. Sì. Fino a un'ora da quando l'hanno vista la prima volta. Ah, cioè loro hanno tutto il tempo di riuscire ad avvicinarsi alla preda facendo anche dei spostamenti che non sono diretti come farebbe un normale artropode, diciamo robotico, se vogliamo. Sì, sì, sì. Ma riescono addirittura a escogitare dei piani per riuscire a prendere la preda da dietro, coglierla di soppiatto, e quindi esattamente come fanno le tigri, dei felini, le vere tigri, quelle grosse. Sì, sì, per esempio le leonesse, quando si mettono vicino ai laghetti dove vanno a bere, le gazzelle, fanno dei piccoli spostamenti di anche 10 centimetri per volta, e il ragno uguale. E beh, l'agguato è l'agguato, la tecnica dell'agguato è quella. Quindi anche quello gli permette sostanzialmente di non farsi fregare dalla preda, cioè di riuscire a evitare qualsiasi tipo di problema derivante dalla preda, visto che gli arrivano da dietro. Quanto saltano, Emanuele? Quello che salta di più in assoluto comunque salta sempre un 20-30 centimetri, che comunque ma Olimpiadi subito, esatto, è veramente è un salto notevole per un animale. Le Olimpiadi degli insetti, secondo me lui è un campione. 7-8 volte la lunghezza del suo corpo. Anche di più alcune specie in proporzione alla dimensione. Li abbiamo in Italia? Sì, ce n'è parecchie specie. Infatti, nella pubblicazione hanno dato una specie che avevano comoda lì. Gli salticidi sono presenti in tutto il mondo, con tantissime specie, e tutti adattati al loro ambiente, sono molto diversificati, alcuni hanno forme pazzesche, hanno queste zanne allungatissime specializzate nel cacciare alcune prede, altri assomigliano a dei piccoli coleotteri, altri ancora a piccole formiche. Sono veramente una moltitudine biodiversa notevole. Ma se uno in Italia vuole andare a vederli, dove va? A Forlì, Alessandria, dov'è che va? Allora, dove i abitano? Posti migliori durante l'estate sono i bagni, le toilette. nel senso che in casa spesso trovate questi, questi ragnettini che saltano sui muri, no. E spesso io li trovo in bagno, ironicamente, perché cercano certe volte luoghi freschi, luoghi magari dove trovano moscerini, no, che volano, eccetera. E se no, normalmente in natura, basta che cerchiate in giro nei prati, sono molto una specie, sono diverse specie molto comuni di solito, e si trovano normalmente in giro senza alcun problema. L'unica cosa, li vedete solo perché sono molto piccoli, ma saltano, quindi notate subito questo strano ragnetto, ecco, che per scappare da voi. Facciamo salta. Una cosa, curiosoni, andate sul nostro sito moebiusonline.eu, trovate le foto e li cercate e ci fate sapere. E se ne trovate anche, uno, anche se vi interessa un articolo, un breve articolo sul mio sito. Ah, che ricordiamolo, sì. Un po' la vita dei salticidi, si titola proprio Le tigri dell'erba. E poi tu sei un bravissimo fotografo, quindi ricordiamolo, anura.it. Grazie Emanuele. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao, grazie, arrivederci. Va bene, allora andiamo saltando verso la fine. Sì, un momento, che c'ho la soluzione del quiz. Giusto, non l'abbiamo fatto. Che era: l'acqua non congela sempre a 0 gradi, però c'è una temperatura oltre la quale congela sempre. Sì, la risposta esatta è meno 48 gradi. Il congelamento è legato al fatto che l'acqua contenga delle piccole impurità, su queste si aggregano i cristalli, però l'acqua più è pura, meno congela, ma a meno 48. Non abbiamo dubbi. Niente, sì, spero che non sia. Ci sarà qualcuno adesso a meno 48, speriamo di no, anche se le temperature sono in calo, va bene. Buona serata a tutti. Buona settimana anche a tutti, ci vediamo qui fra 7 giorni.